La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, la rosa purpurea, buona giornata, buon weekend estivo da Franco D'Assisi, dalla rosa purpurea all'ora di cinema settimanale di Radio 24. Stiamo entrando nella settimana di Ferragosto, qualche novità in sala c'è anche in questo weekend, c'è poi tutto il cinema che è residente, diciamo, dalla fine del mese di luglio, ma la rosa purpurea è qua perché oltre a raccontarvi queste novità abbiamo da andare avanti oggi veramente con una puntata speciale con le novità che vedremo sullo schermo per quanto riguarda il cinema italiano da settembre in poi. Davvero tre interviste importanti, tutte esclusive qui per gli appassionati e gli ascoltatori della Rosa Purpurea, con quelli che sono poi gli uomini botteghino del cinema italiano. E allora entriamo subito nel vivo dei nostri contenuti con i titoli di testa. Ultimi fuochi della programmazione cinematografica pre-Ferragosto. Si va dalle spettacolari evoluzioni surfistiche dell'australiano Drift allo scambio di identità uomo-donna di Io sono tu, protagonista Jason Bateman. Ne parliamo con Boris Sollazzo. Prosegue con tre nuove interviste esclusive il nostro viaggio alla scoperta del cinema italiano della prossima stagione. Oggi incontriamo Stefano Accorsi e Geppi Cucciari, protagonisti del film L'arbitro di Paolo Zucca. Commedia surreale su un grande direttore di gara caduto in disgrazia, alle prese con una agguerrita sfida locale fra due squadre sarde. Rocco Papaleo racconta invece una piccola impresa meridionale, il suo ritorno alla regia dopo il successo di Basilicata Coast to Coast. Protagonisti lo stesso Papaleo e Riccardo Scamarcio, che per diverse ragioni e insieme ad altre persone si trovano a vivere in un vecchio faro in disuso. E Papaleo rivela: con Scamarcio ci siamo piaciuti subito. Infine, un altro re del botteghino della commedia nostrana, Fabio De Luigi, svela i particolari del suo prossimo film, Aspirante Vedovo. Il remake de Il Vedovo di Dino Risi, interpretato dalla strepitosa coppia Franca Valeri-Alberto Sordi. Al fianco di De Luigi, in questa nuova versione, c'è Luciana Litizzetto. Dirige Massimo Venier. Il corpo umano è composto per circa il 60% d'acqua. In alcuni di noi un po' di più. E beh, questa è la premessa che abbiamo voluto agganciare al nostro jingle, perché stiamo parlando di Drift, Cavalca l'onda, il sottotitolo, diciamo, di questo film australiano, tra l'altro un film che per il cinema australiano è abbastanza ad alto budget, che ha un po' l'ambizione di ripercorrere quelli che sono i fasti di Point Break, magari senza proprio tutta quella trama gialla e noir che c'era in quel film, ma con tutta la passione e tutta anche la magnificenza delle immagini che riguardano il surf, questo sport che tanto affascina, un po' per le caratteristiche, insomma, che si porta dietro, anche quasi filosofiche, un po' per la spettacolarità innegabile di quello che vediamo. Allora, grande passione da parte di alcuni fratelli australiani negli anni 70. Da bambini si trasferiscono insieme alla madre a Margaret River, piccola cittadina costiera dove le onde sono particolarmente difficili da cavalcare e per questo attraenti, e per i successivi 12 anni questi ragazzini perfezionano la loro tecnica, diventano dei surfisti provetti. Da lì in poi il film chiaramente diventa un'altra cosa. Sentiamo quest'altra clip, poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Il vincitore della gara di surf di Sydney, Jimmy Kelly! Ubriachiamoci! Mi sembra impossibile che tu riesca a vivere così. Fotografare i surfisti non sembra un lavoro giusto. Non dirlo a nessuno. Ho avuto un'idea. Ed è legale. Visto, che meraviglia. Ci sa fare. Quando c'è schiuma si surfa e quando è piatto lavoriamo. Non riuscivo a togliermi gli occhi di dosso. Stava cercando di capire se sei mio fratello o mio padre. È tutto a posto con Jimmy. Ho tenuto d'occhio i tuoi amici hippie e adesso farò lo stesso con voi. Non hanno niente contro di noi, lo sai anche tu. Boris, ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea. Ciao Franco, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo detto cercare di rinverdire i fasti di Point Break, insomma, è chiaro che la similitudine è automatica. Cosa c'è di nuovo, cosa c'è di diverso, cosa c'è di bello in questo Drift? Guarda, allora, Point Break è nel côté, diciamo, più criminale, anche se qui non c'è il nichilismo bigeloiano, l'arte del crimine, ma più che altro la necessità del crimine. E dall'altra parte c'è anche un po' di Lords of the Town, film meno conosciuto, dove tra l'altro c'era uno straordinario Heath Ledger, dove si racconta un po' cos'è veramente una comunità di surfisti, che è sostanzialmente una sorta di setta innocua, molto divertita e divertente, che condivide molte cose e che ha questa passione che è difficile da raccontare per chiunque non l'abbia provata, cioè per chiunque non sappia mettersi in piedi su una tavola e cavalcare un'onda è molto difficile capire cosa unisca queste persone. Il film probabilmente non è all'altezza né di Point Break né di Lords of the Town, però ha qualcosa di interessante perché riesce in qualche modo a farti stare lì sulle tavole con loro, a farti entusiasmare per questo lavoro che loro fanno sui nuovi design delle tavole, sul tentativo di fare un business della loro grande passione, migliorando però la performance a cui sono tanto legati e che attorno alla quale gira la propria vita. Alla fine di Point Break, se ricordate, c'è il criminale che chiede di cavalcare l'ultima onda, l'onda perfetta, prima di essere arrestato. Per lui è fondamentale quello, non gli interessa se poi quello la risposta a quello sarà la morte o il carcere a vita. E più o meno nel quotidiano questo lo vediamo anche in Drift, che è un film ad 11 milioni di euro che non ha moltissime pretese, ma quelle pretese secondo me alla fine le rispetta tutte. Certo, bisogna essere un minimo appassionati del genere. Se del surf non vi interessa niente, non vi piacerà. Interessante vedere che anche il primo film forse in cui Sam Worthington esce fuori dalla maledizione di Avatar e recita da par suo, dopo Cameron non gli era più successo, e in qualche modo questo anche è una piccola considerazione interessante. Insomma, se vi va di cavalcare l'onda, Drift è il film adatto. Ci sono onde sinistre che si incurvano fino a formare tubi giganti. Solo pochissimi hanno fatto surf laggiù. Solo raggiungerla sembra impossibile. Se Dio facesse surf, quello sarebbe il suo paradiso. Non sembro nemmeno io. È molto di più di te. Ho tutto sotto controllo. Credi in me. Tu e Jimmy siete come lo yin e lo yang. Entrambi fate schifo senza l'altro. Che difficile non è cavalcarle, semmai è prenderle. Vai, vai, vai! Ci adattiamo, sopravviviamo, andiamo avanti. La Rosa Purpurea. Ancora insieme La Rosa Purpurea, un altro film, un'altra novità in sala in questo weekend agostano, si intitola Io sono tu, e vede insieme di nuovo il regista Seth Gordon e il protagonista Jason Bateman. E allora, il tema è molto semplice, scambio di identità, ma fra un uomo e una donna, perché ci sono alcuni nomi, vi sarà capitato, che sono sia al maschile che al femminile. E in questo caso è così, entrambi, sia il derubato dell'identità, sia colei che il furto lo compie, si chiamano Sandy. Si chiamano non solo Sandy, si chiamano così anche di cognome. E quindi ci sarà per il povero Jason Bateman da riappropriarsi dell'identità e di qualcos'altro. Dice che dobbiamo levarle la carta perché non paga. Io pago e come? La strisci un'altra volta, è perfetta. Randy, si faccia una prepagata. Sandy. È su nome di mujer. Io sono Sandy, mi chiamo Sandy. Non ho capito, ma non era un complimento. Non lo era. Superato il limite di credito, io uso la carta per il caffè e la benzina. In Florida. Great Beyond Water Sports, mai sentito. Io sono in Colorado, non ci sono spiagge. Sa, qui c'è solo terra. Lei non si è presentato in tribunale, in Florida, 3 giorni fa. Non sono mai stato in Florida. Prendi quella foto. Chi diavolo è? Questa è la persona che le ha rubato l'identità. E allora, Boris, qui c'è nel ruolo di protagonista Melissa McCarthy di Le amiche della sposa, e l'idea forse migliore di questo film, che per il resto vive su cose già viste e già raccontate, è proprio quella di fare il furto d'identità uomo-donna. Devo dire, fortuna che non è andata in porto l'idea che invece avevano avuto all'inizio, cioè di far fare a Jason Bateman un uomo e la donna. come era capitato già ad Adam Sandler, non per un film sul furto di identità, ma semplicemente per un film su due fratelli. Fortunatamente Batman, dopo aver visto Le amiche della sposa, vede Melissa McCarthy e incomincia Seth Gordon a prendere lei, e lei di sicuro è una delle cose migliori del film. Dispiace perché ho grande stima di Seth Gordon e mi piace molto come attore Jason Bateman, che secondo me nelle mani giuste diventa un po' come il Das, ben modellabile per il ruolo che un regista con le idee chiare può dargli. E qui però è tutto troppo facile l'idea comica del trasferimento di identità e del furto di identità, è troppo facile tutto ciò che ne consegue, cioè tutte le improbabili situazioni in cui si trova il povero Jason, una delle quali abbiamo sentito nel trailer, diciamo, una scena così non faceva ridere nemmeno 20 anni fa, figuriamoci adesso, e alla fine ne esce fuori, secondo me, un prodotto abbastanza mediocre, in cui si tiene tutto sopra perché Seth Gordon sì, gira discretamente, anche se qui sembra molto distratto e sciatto, e Jason Bateman e Melissa McCarthy comunque, anche quando recitano male o quando non hanno un ruolo proprio perfetto, sanno portare a casa il film. Però davvero, ecco, non è il film con cui cercherei di passare una notte estiva, una serata estiva, trovo che sia decisamente poco riuscito. Every day I'm hustling, hustling, hustling, hustling. Sandy Bigelow, Patterson. Every day I'm hustling. Ma che? La ricevuta. Facciamo così, si prende la carta, è esaurita. Mettiamo! Guarda, ma sembra un hobbit. Posso pensarci io, devo inseguire Bilbo. Ma è una follia, tu non insegui i criminali. Non sei mica Batman. Ah, il collo. Solo il collo, eh? Scambiamoci i dati. Sandy Bigelow Patterson? Bigelow è così raro come nome. Guardi che ha un cognome. Jeremiah Bigelow era un cacciatore d'orsi molto famoso. Bel coraggio. Ecco la mia patente con il mio nome. Sandy Bigelow Patterson. Tana. E questo è il momento in cui appunto le due identità vengono a contatto, potremmo dire a conflitto. Grazie Boris, appuntamento alla prossima settimana. La prossima settimana. E allora, archiviata la breve parentesi di questo weekend che introduce al Ferragosto per quanto riguarda le novità in sala, andiamo a giocare insieme, perché il nostro gioco non vi abbandona mai. Prima traccia del film misterioso di oggi. Ho bisogno di emozioni, di sentimenti forti, di dimensioni gratificanti. Noi sembriamo due vecchi, Stefano. E io non voglio ridurmi a fare la vita squallida, insipida di mia sorella e di mio cognato. La Rosa Purpurea @radio24.it, di che film si tratta, vostro indirizzo per provare a vincere il DVD di questo film. Più tardi avremo, come sempre, altre due possibilità. Magnolia! Lui è Arturo, il marito di mia sorella. Il cornuto. Una clip in anteprima di un altro dei film attesi, delle commedie italiane attese della prossima stagione, il ritorno di Rocco Papaleo da regista con Una piccola impresa meridionale. Dopo il successo incredibile di Basilicata Coast to Coast, successo che è durato anni, che è andato all'estero, che ha fatto di Papaleo uno dei personaggi più attesi alla sua riconferma come regista nel cinema italiano, eccoci di nuovo di fronte al suo nuovo film, che ha come coprotagonista, anche qui è un film collettivo in qualche modo, ha come coprotagonista Riccardo Scamarcio, e quindi sicuramente la vicinanza fra due personaggi molto diversi del nostro cinema, però in grado di far scoccare una scintilla comica che è tutta da verificare, il film lo vedremo, ma che sulla carta può essere vincente. E allora andiamo a sentire un po' Rocco Papaleo, preso, catturato sempre sulla terrazza di Riccione alle giornate professionali di cinema, con quella che è l'origine di questo film e anche di questo titolo, un titolo che riprende quello del testo teatrale, perché anche in questo caso, come in Basilicata Coast to Coast, alla base c'è, almeno nei prodromi, un'opera teatrale, anche se qui Rocco Papaleo ci racconta le cose non sono andate proprio così. In realtà questa, diciamo, è un po' una scaramanzia, non è tratto affatto da un'opera teatrale, anche se ha lo stesso titolo di uno spettacolo teatrale. L'ho fatto per scaramanzia proprio perché la precedente occasione ho fatto Basilicata Coast to Coast, che veniva quello da una lo spettacolo di teatro canzone. Allora stavolta avevamo scritto questa sceneggiatura con Walter Lupo e di conseguenza abbiamo a ritroso intitolato lo spettacolo teatrale nello stesso modo, per un becero spirito così un po' meridionale, superstizioso. Il film è la storia di un gruppo di persone che per ragioni diverse si trova a vivere per un periodo della loro vita in un faro in disuso, cioè non si accende sto faro, e ci piove anche dentro. Anche nella vita di queste persone ci piove dentro. A un certo punto loro decidono, così per non bagnarsi, di riparare il tetto, chiamano una ditta, la viene a riparare. Questa ristrutturazione li prende un po' la mano, tant'è che decidono di ristrutturarlo completamente, di abbellirlo questo faro, e facendo questa operazione non fanno altro che abbellire e ristrutturare anche le proprie esistenze. I personaggi siamo qua, io e Riccardo Scamarcio, diciamo, abbiamo puntato ovviamente anche in questo caso sulla nostra avvenenza. È un film molto sexy, non lo nego, diciamo, è un film veramente sensuale, ecco, più che sexy. Inutile che ora perda del tempo a specificare la differenza tra sensualità e sessualità. Io sono un ex prete e Riccardo è un musicista velleitario, però mi piacerebbe anche sentirlo dalla sua bocca. Io posso dire soltanto che di me stesso e di tutti gli attori del film sono molto orgoglioso, perché siamo riusciti in quella, diciamo, anche casuale alchimia che a volte si genera in un'impresa cinematografica, a trovare un'intesa, una specie di proprio comunione, se posso usare un termine così caro a Papa Francesco. Gli altri sono Barbara Bobulova, Sara Felberbaum, Claudia Potenza. Barbara Bobulova è un'ex mignotta, Claudia Potenza è un'ex moglie, Sara Felberbaum è la badante di Giuliana Loiodice, altra attrice del film, che è mia madre. Giovanni Esposito, Gian Piero Schiano sono la meridionale SRLS Ristrutturazioni, la ditta che viene chiamata per ristrutturare il faro. Mi sono posto anche il problema di non fare un sequel, in sostanza, diciamo, mi piaceva l'idea di cambiare un po' direzione. In fondo penso un po' di averlo fatto, pur rimettendo in campo gli elementi che mi sono cari o comunque che mi ispirano particolarmente, che sono la sensualità, appunto dicevo, la natura, la musica e il percorso che attraversa, diciamo, le nostre aspirazioni, i nostri sogni e la possibilità di poterli realizzare. Il posto è un meridione generico, non si accenna a un luogo preciso. Se proprio volete spingere la vostra fantasia, vi direi un'Appula Lucania, cioè una terra di mezzo tra Basilicata e Puglia. No, io non ce la faccio più a paese, tutti quanti che mi prendono in giro con questa storia delle corna. Fammi stare qua. Ma nella scuola guida? La scuola guida ci sta Maddalena e Caterina, se la vedono loro io mi metto qua dentro la casetta. Sì, mo tutti nella casetta. E di pugliese Rocco Papaleo si porta dietro anche, come dicevamo, il coprotagonista Riccardo Scamarcio. Come è nata l'intesa, come è nato il rapporto fra i due, come è nata l'idea di lavorare insieme? Sentiamo. Guarda, io mo davanti a Riccardo non mi va di parlare, però sinceramente noi non ci conoscevamo tanto con lui, ovviamente sì, ci siamo incrociati tante volte, però io avevo, diciamo, sentivo un odore, non sto scherzando, cioè proprio annusato in quest'uomo, sì. Cioè, non era manco sicuro che lui ci cascava dentro. Ci siamo incrociati un giorno a casa mia e abbiamo suonato. Perché è sempre dalla musica, insomma, che parte tutto, almeno per me. E quel giorno lì di musica eravamo io, lui e un paio di musicisti del mio gruppo. E abbiamo fatto un pomeriggio insieme, pianoforte, chitarra, lui alle percussioni. E diciamo, abbiamo trovato, come direbbero i grandi jazzisti, abbiamo trovato il nostro suono. Io c'ho molto da dire, perché sono particolarmente soddisfatto, perché nel film si sente proprio nell'aria, c'è questa sensualità. Devo dire che, insomma, io poi Rocco non lo conoscevo così bene, però nel film questa cosa c'è, è anche molto evidente, però insomma non lo conoscevo sotto questo aspetto. E poi anche mentre giravamo mi sono reso conto che, insomma, sì, sono stato anche spostato, le donne mi dicono scusa, Dobbiamo parlare con Rob. La rosa purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, eccoci ancora a parlare di novità, prossime venture nella stagione che verrà cinematografica italiana, soprattutto appunto di cinema italiano. Ebbene, fra i film che vedremo sul grande schermo ci sarà anche un film già molto atteso, si intitola L'Arbitro, e direi che il titolo dice tutto, e racconta la storia di un arbitro che è stato grande, che ha avuto un trascorso importante, ha diretto partite di grandissimo livello internazionale, ma che è caduto in disgrazia per una vicenda di corruzione e che adesso si trova ad arbitrare su campi di periferia, di provincia, e viene chiamato ad arbitrare una partita certo importante, ma di una categoria infinitamente minore, in Sardegna. Lì cosa succederà? Succederà che ci sarà il ruolo importante della figlia del presidente di una delle due squadre, ma un po' soprattutto che quest'arbitro, detto il principe, si troverà di fronte a una realtà polverosa, rude, che prende sì gli stereotipi del calcio dei grandi, ma insomma in maniera in certi momenti anche un pochino comica, anche se molto molto seria. Protagonista di questo film, che è stato girato da Paolo Zucca, sarà Stefano Accorsi. Protagonista femminile sarà Geppi Cucciari. Noi fra poco li ascoltiamo, prima però sentiamo questa clip tratta dal cortometraggio L'Arbitro, che lo stesso Paolo Zucca aveva diretto nel 2009 e che vinse il David di Donatello ed è stato il cuore narrativo di questo lungometraggio che vedremo nel prossimo autunno. Lei sa suonare lo zufolo? No, ma questo cosa... È molto semplice. Si tappano i fori con le dita, vi si soffia dentro con la bocca e il flauto emetterà una musica dolce, viva, parlante. Sì, ma io non ci riesco, poi sinceramente... Ma santo è Dio! Crede che sia più facile suonare me piuttosto che un piffero? Pusceddu! La scongiuro, dottor Miloschi, si tratta della mia carriera! Se ci teneva davvero alla sua carriera, non si sarebbe dovuto vendere per un piatto di lenticchie. Oppure non si faceva beccare. Io ho saputo alcune cose, tipo che è l'arbitro, che tu sei l'arbitro, sei anche vestito di nero, quindi... Cioè, che coerenza! Come si faceva una volta. E però raccontaci un po', per esempio, quanto calcio c'è, quanto... A me la prima cosa venuta in mente era il Sorrentino dell'uomo in più, cioè quella figura lì di calciatore, qui c'è comunque di... umanizzata, cioè fuori da un po' dalla questione sportiva, ma più legata al suo modo di essere, di vivere, tutto. È così? Hai detto bene umanizzata, perché in tutti gli aspetti che riguardano il calcio in questo film, sia dal punto di vista dell'arbitro che dal punto di vista delle due squadre, una delle quali è allenata dal padre di Geppi nel film, e noi ne vediamo soprattutto gli aspetti più umani, più fragili, legati all'ambizione, alla voglia di vincere, alla voglia di appagare un sogno, al desiderio di realizzarsi nella vita, di capire chi si è, dove si va. Quindi questo è l'aspetto più caldo. Poi c'è anche l'aspetto, tra virgolette, spettacolare del calcio messo in scena, però spettacolare e divertente, perché le partite che si vedono non sono mai quelle di alta categoria. Io all'inizio sto arbitrando un importante campionato europeo per la FIFA. Come la fantasia di questo regista, Paolo Zucca, fa sì che tutti i nomi sono stati un po' stravolti alla Topolino, a FIFA. Ma invece tu quanto calcio c'è stato fino adesso nella tua vita? Sei tifosa, ti interessa, non te ne frega niente? Cioè... È una domanda alla donna, sì, quindi. No, a te. Sì, sì, beh, insomma, il calcio, beh, per un sardo il Cagliari Calcio è una squadra di calcio, oltre che una città, ma il Cagliari e Matteoli a Rodugo, dicevamo sempre, Matteoli, lo storico capitano del Cagliari, che ha illuminato molte domeniche pomeriggio sarde, se non c'è più, ma nel mio cuore è rimasto, di sicuro tifo il Cagliari, il mio rapporto col calcio si ferma lì, a sapere cosa ha fatto il Cagliari la domenica. Ecco, il rapporto invece fra donna e calcio è più interessante, forse anche perché mi pare di capire tu sei la figlia di un allenatore. Nel mondo del calcio la figura femminile non è che sia proprio, come dire, sempre valutata come un apice di... No, diciamo che è una caratteristica dei calciatori accompagnarsi a delle donne molto belle, molto giovani. In questo caso non succede, del resto è probabilmente commisurata anche alla categoria del calciatore, c'è una donna di un altro genere rispetto all'abbinamento consueto italico, intendo, nei costumi. Il bomber di cui io mi innamoro è di sicuro di fascino discreto, discretissimo, anche se in realtà l'attore è anche un bel ragazzo, ma nel film il fascino lo perde un po', e io comunque me ne invaghisco in qualche modo, ed è l'unica cosa che interessa al mio personaggio del calcio, ecco. Se posso aggiungere una cosa, è molto divertente come Paolo Zucca racconta il rito che si consuma ogni domenica fra quelli che appoggiano una squadra e i loro idoli. Cioè, alla fine è divertente anche vedere di come c'è un'esaltazione assurda dopo un gol, di una manciata di spettatori che potrebbero essere un paio di decine, quindi 20, e più o meno, non è che ho detto un paio di decine, teniamolo più vago, e l'entusiasmo del calciatore, cioè come proprio l'aspetto rituale del calcio, anche consumato in tutto in 30-40 persone, poi ha sempre la stessa intensità di uno stadio a San Paolo del Brasile. È un film che non ha un grande budget, è un'opera prima, quindi si è deciso di non raccontare il calcio in un modo spettacolare, proprio perché non era nelle necessità di sceneggiatura, ma era la cosa bella quando si è su un set, secondo me, sentire che quel set appartiene a quel regista. E Paolo Zucca è un regista che tiene il suo set molto esigente, allo stesso tempo non perde l'ironia, ha chiesto ai suoi compaesani di fare delle scene che io credo sicuramente qualunque Stanzi sarebbe rifiutato di fare, perché gli chiedeva di rotolare correndo velocissimi, poi di cadere, poi in realtà solo uno spettatore un giorno si è sentito poco bene perché ha bevuto troppo, ma faceva veramente molto caldo, quindi era una bella atmosfera, era piacevole, anche un po' faticosa perché abbiamo girato d'estate in Sardegna in un campo di polvere e sudore. Il tuo arbitro ha qualcosa di qualche arbitro vero, cioè di, non so, l'autorità di un collina, cioè come ti sei rapportato a queste figure, no? Beh, allora, intanto ho scoperto il mondo degli arbitri, nel senso che mi sono documentato, ho visto tante cose e non conoscevo questo aspetto, non conosco niente del calcio. Devo dire che questo è un grave problema che ho quando i miei amici si mettono a parlare di calcio e non so più cosa dire, quindi ascolto, annuisco. Poi non fa neanche tanto ridere, cioè se tu non sai di calcio, vuoi scherzare su questa cosa e gli altri stanno parlando di calcio, non fa ridere nessuno. Cioè diventano tutti seri quando si... Oppure ridono ma in un modo che ha a che fare solo col calcio, non so come dire. Cioè la gente più simpatica perde tutta l'ironia di colpo. Quindi ho conosciuto l'ambizione di un arbitro che vuol fare carriera, per esempio. Sì, c'era un po' di collina, ma c'era un po' di tanti. Poi il soprannome del mio arbitro nel film è il Principe, per uno stile assolutamente fuori luogo nel momento in cui arbitrerà questa partita di terza categoria, cercando di mantenere una plomb quando poi intorno succede a un certo punto qualunque cosa, cioè dal tentativo di impiccagione del secondo ad una pecora crocifissa in segno di minaccia, a fucilate che partono così, insomma, invasioni di campo selvagge. No, è sorprendente questo film. Egregio dottor Puscelli, il Consiglio federale arbitrale, riunitosi in via del tutto straordinaria, ha deliberato in modo unanime e irrevocabile il vostro deferimento immediato presso la categoria ultima dei campionati dilettantistici del distretto nord-occidentale della regione Sardegna. E allora, questo era l'arbitro con Stefano Accorsi e Geppi Cucciari di Paolo Zucca, davvero ansiosi di vederlo, perché il calcio è una materia sempre molto molto magmatica nelle mani di un regista, nelle mani del cinema, non è facile da riprendere, il gesto tecnico è troppo fissato nei nostri occhi, quello professionistico, per non sembrare spesso ridicolo quello artefatto del cinema, insomma, qui il taglio mi sembra quello giusto, quello un pochino surreale, e vedremo che cosa sarà riuscito a fare Paolo Zucca. A questo punto però noi giochiamo insieme perché siamo arrivati alla seconda traccia del film misterioso di oggi. L'unico dato significativo è che dall'esame precedente tua moglie risulta che mi sente un 25% in meno dall'orecchio sinistro. La Rosa Purpurea @radio24.it, di che film si tratta? Una celebre commedia italiana di qualche anno fa ormai. Scriveteci il titolo e anche il vostro indirizzo privato per provare a vincere il DVD di questo film. Più tardi avremo l'ultima possibilità. Oh, dedichiamoci a un'altra commedia, e del resto, insomma, come dire, il genere che in Italia si produce di più, soprattutto si produce di più in estate, con un altro degli attori che poi di riffa e di raffa riesce sempre a essere fra i campioni d'incasso al botteghino italiano. Stiamo parlando di Fabio De Luigi e il suo nuovo film, che vedremo nella prossima stagione, nel prossimo autunno, si intitola Aspirante Vedovo ed è diretto da Massimo Venier, regista ormai, come dire, autonomo, fra virgolette, e con diversi successi alle spalle, lanciato dai film di Aldo e Giovanni e Giacomo, quelli migliori, possiamo dire. A fianco a Fabio De Luigi ci sarà Luciana Littizzetto, però per raccontarci qualcosa di più abbiamo chiesto a Boris Sollazzo di intervistare Fabio De Luigi. Fabio De Luigi, avresti mai pensato di fare l'aspirante vedovo? No, pensavo nella vita tutto tranne che aspirare a essere vedovo, insomma. Forse nella vita, no, non io, dico qualcuno potrebbe anche ogni tanto avere questo retropensiero nella parte, diciamo, dietro del cervello, magari ogni tanto può venirti in mente, ah, ma come sarebbe la mia vita se morisse la mia compagna o il mio compagno, o mio marito o mia moglie, insomma. Però no, non avrei mai pensato. Senti, sei andato a pescare nella tua autobiografia per questa storia d'amore così difficile? No, anzi, vivo una vita di coppia molto serena, ci tengo a dire. Mi ha proposto questo film Massimo Venier, che conosco da tanti anni, in quanto abbiamo lavorato insieme anche con la Jalapas. E c'era anche il piacere, salve, c'è arrivata una persona. No, che... io sono una che origlia. Ah, origli così, e io però mi distraggo, origlia. È arrivata una e mi ha distratto, che è una origliatrice. E cosa stavo dicendo? No, che è arrivato Massimo Venier proponendomi questo copione, che è un copione che si ispira liberamente a un film di uno dei miei registi preferiti, che è Dino Risi, ed è il vedovo appunto di Dino Risi, con due mostri sacri della cinematografia nostrana, che sono Alberto Sordi e Franca Valeri, insomma, dai quali siamo stati lontanissimi per evitare qualsiasi tipo di tentativo di imitazione che sarebbe stato suicida. Senti, questa è una gara, perché sostanzialmente Luciana aspira ad uccidere te e tu aspiri ad uccidere Luciana. Sì. Quanto è facile pensare di uccidere Luciana? Nella vita è difficilissimo, perché Luciana è una persona squisita, la conosco veramente da 100 milioni di anni, dal 90 addirittura, e invece nel film risulta facile, siamo tutte e due abbastanza, forse il bello di questo copione era proprio quello, che ci sono, sì, io in realtà sono vittima sua, ma io stesso non sono una bella persona. Insomma, siamo tutti un po' brutti, ecco, siamo tutti un po' negativi, tutti abbiamo qualcosa da farci perdonare, per cui lei giustamente si augura che io possa passare a miglior vita, e io anche, insomma. Senti, l'impressione è che questo paese ami sempre di più le commedie più cattive, perché questo paese sta diventando più cattivo, perché le persone sono sempre più egoiste, secondo te perché? No, forse perché come tutte le, a ogni tendenza equivale a una controtendenza, forse troppe c'è voglia di ogni tanto di sperimentare altri linguaggi, altri mondi, appunto una commedia cattiva ogni tanto forse ti allontana e ti sembra più nuova rispetto a una commedia buona, poi in realtà esistono le belle commedie e le brutte commedie. Non hai paura di rimanere, insomma, etichettato nella parte del marito vittima, perché pure nelle peggiori settimane natali sei un... No, lì ero vittima del destino più che di qualcuno, ero vittima di me stesso in qualche modo. Qua, come ti dicevo prima, sì, di base sono vittima un po' di Luciana, ma anche io non sono da meno, insomma, adesso al di là delle poche immagini che avete visto, ma insomma lo sviluppo della storia va in questo senso. Senti, ho visto che tra i tuoi complici c'è anche Francesco Brandi. L'ottimo Francesco Brandi, ma anche Ale, Alessandro Bisentini, che ha fatto secondo me una bellissima prova d'attore, fra l'altro. Credo che sia un bravissimo attore e credo che lavorerà molto nel cinema in futuro, perché se lo merita. Grazie. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea e siamo arrivati alla parte che dedichiamo tradizionalmente al grande cinema da recuperare sul piccolo schermo. Grande cinema sul piccolo schermo. Anche, come abbiamo detto già in questo mese di agosto, anche in questa settimana di Ferragosto non mancano le segnalazioni, i film importanti da vedere, anzi ne abbiamo scelto uno proprio il giorno di Ferragosto, così imparate. Allora, Giulio San Giorgio di Film TV, altra rivista che non chiude mai, perché essendo un settimanale ovviamente è sempre con la saracinesca alzata, è qui con noi. Ciao Giulio. Ciao Fra. Franco, un saluto decisamente accaldato ai radioascoltatori. E allora cerchiamo di rinfrescarli, dai, con magari un filo d'aria condizionata, giusto un filo, un bel ventilatore e qualche film che meriti di essere visto o rivisto. Direi che rientra in pieno nella categoria quel capolavoro del 1945 intitolato Les Enfants du Paradis, Amanti perduti di Marcel Carné. Esatto, Amanti perduti, martedì sulla F alle 21:30, questo è veramente grandissimo cinema sul piccolo schermo, siamo nella Parigi del 1840, una compagnia di attori ottiene ogni sera un gran successo nel teatro popolare dei Funambule. Tra essi c'è anche un mimo, Baptiste Dubourg, che si innamora perdutamente della bellissima Garance, ma la donna è contesa da altri tre uomini. Sceneggiato da Jacques Prévert, è una sorta di adattamento dei Misteri di Parigi con più di un retaggio di L'opera da tre soldi di Bertolt Brecht. È ispirato alla storia del mimo ottocentesco Dubourg, è un film mitico, inafferrabile, spesso frainteso, è un film sul teatro, dedicato agli attori e consacrato agli attori, ed è un film soprattutto sull'amore. È costato una cifra incredibile per l'epoca, parliamo di 60 milioni di franchi per il 1945, ed è considerato da un sondaggio d'Oltarpe il miglior film francese di tutti i tempi. Sono 195 minuti di poesia sulla F e poi al cinema lo scorso 22 luglio in versione restaurata, e sono da evitare assolutamente la versione italiana da 90 minuti, che non rende assolutamente giustizia a questo capolavoro assoluto. E allora, Les Enfants du Paradis, Amanti perduti, Marcel Carné, avete sentito i nomi che giravano, insomma, Prévert, Brecht, vabbè, insomma, cioè, c'era una volta un certo tipo di cinema. Adesso invece noi andiamo a prenderci qualche schiaffone, probabilmente, con il prossimo film, perché? Perché il protagonista è il rimbalzante Jackie Chan in un film del 2004 che si intitola New Police Story. Sì, New Police Story, su Cielo alle 23:15 di mercoledì. L'ispettore Wing della polizia di Hong Kong è l'unico sopravvissuto della sua squadra, falcidiata da una gang di malavitosi, ed è caduto in depressione e in preda all'alcolismo per via del senso di colpa. Un giovane però lo avvicina chiedendo la sua collaborazione e convincendolo a tornare al lavoro per sgominare quella stessa banda. Si tratta del quinto capitolo di una serie poliziesca d'azione sulla polizia di Hong Kong. In patria è stato atteso come un evento per il ritorno di Jackie Chan in un progetto di alto profilo hongkongese dopo una trasferta americana che non è stata proprio felice. Qui Jackie Chan si fa accompagnare dal regista Benny Chan, suo direttore fetiche, chiamiamolo così, e propone un noir sempre più cupo, pessimista, che poco ha a che fare con gli altri film della serie, e tra le acrobazie c'è una visione taglientissima e disperata di una nazione. E allora riepiloghiamo i due appuntamenti: 13 agosto, Amanti perduti, la F, 21:30, 15 agosto, in serata dopo l'anguria, diciamo così, New Police Stories con Jackie Chan, su Cielo alle 23:15. Grazie a Giulio San Giorgio. Ciao Franco, la prossima settimana. E siamo arrivati all'ultima traccia misteriosa del film di oggi. Provate a indovinare di che film si tratta, sentiamo. Dimmi allora ando stavamo quando abbiamo fatto chi Megadeth? Sul traghetto per Ponza. Chi Sant'Anna ando stavamo? A Roncobilaccio, mezza nebbia. E infatti, chi per Jam? Guarda che chi per Jam n'amo fatto mai, eh. Ha fatto con un'altra zoccola. È fantastico, insomma. Qui si poteva dire il titolo del film, forse sarebbe stato più difficile da indovinare. Comunque, avete visto che l'abbiamo tenuta in fondo, insomma, come ultima e definitiva traccia, anche se molti di voi hanno già capito di che film si tratta. Comunque, La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo. Provate a vincere l'edizione in un video di questo, la riedizione in un video di questo film, che settimana prossima sveleremo. E invece, 7 giorni fa avevamo giocato così. Andremo a Mosca, poi nella mia tenuta in campagna. Sembra un'ottima idea. Ma per un giorno o due Anna sarà a casa. Insomma, l'aria romantica, la musica, Mosca, insomma, si trasudava grande classico russo. Ebbene, Anna Karenina, anche questo, dico, uno dei film più belli, secondo me, visti durante questa stagione in assoluto. Quando si deve mettere mano a un classico della letteratura come Anna Karenina e come il cinema spesso fa, bisogna avere qualcosa da dire di nuovo anche in termini stilistici e di linguaggio. Ecco, in questo caso è quello che è assolutamente successo. Vediamo se il Blu-ray di questo film, che i nostri ascoltatori più bravi hanno vinto e che conosceranno quelli che hanno vinto di averlo vinto verso fine mese, quando la nostra segreteria gli scriverà privatamente, perché appunto siamo in pieno periodo ferragostano. Ebbene, facciamoci raccontare il Blu-ray di Anna Karenina dal nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, da Universal, questa edizione è un video molto importante, prestigiosa, pubblicazione DVD, ma soprattutto in alta definizione Blu-ray, in particolare quest'ultimo con immagini da riferimento, veramente da sala cinema, audio DTS multicanale di ottima resa, mentre è da sala cinema di pari resa alle immagini l'originale inglese DTS, sempre multicanale ma ad alta risoluzione. Sono degli extra molto interessanti, segnalo su tutti il commento al film del regista Joe Wright, scene tagliate, ci sono approfondimenti sulla lavorazione, con in particolare un capitolo dedicato ai costumi. Ricordo tra l'altro che l'acquisto del Blu-ray include in omaggio la versione ebook del romanzo. E allora, questa era quindi Anna Karenina di Joe Wright, tra l'altro molto interessanti gli extra che parlano della lavorazione del film, perché qui di lavorazione ce n'è stata davvero tanta, anche sotto il profilo di set, di scenografie, eccetera. Allora, novità invece in un video. Siamo stati questa puntata molto sui film usciti in questa stagione, quindi vi potete fare anche un'idea interessante, perché si tratta di tre proposte, fra quella di Joe Wright e le prossime che stiamo per raccontarvi, molto molto importanti. Per esempio, Zero Dark Thirty, il film che Kathryn Bigelow ha firmato, basato sull'attività, sulla storia, insomma, della individuazione e dell'uccisione di Osama Bin Laden. Bin Laden usa un corriere per comunicare con il mondo. Una volta localizzato il corriere, è stato localizzato Bin Laden. Tutte qui le informazioni? Nient'altro? Beh, io non vi volevo neanche usare. Con quelle vostre cazzate dei super allenamenti, io volevo tirare una bomba. Ma bisogna avere prove certe per tirare una bomba. Vi usano come se foste dei canarini. Secondo loro, se Bin Laden non c'è, voi siete gli unici che riescono a volar via senza farsi beccare. Ma Bin Laden è lì. E voi lo ucciderete per me. Giovane agente C è reclutata al termine del percorso universitario, Maya si ritrova ben presto coinvolta nella storica caccia al leader di Al-Qaeda. Dopo anni passati tra pedinamenti, depistaggi, collaborazionisti, vittime carnefici di una guerra senza quartiere, giunge finalmente l'ora della vendetta con l'incursione notturna, la stessa che dà il titolo al film, da parte di un comando di Navy SEALs che il 2 maggio 2011 eliminò il terrorista. Dopo The Hurt Locker, sulla guerra in Iraq, la regista Kathryn Bigelow desiderava raccontare della più imponente caccia all'uomo nella recente storia dell'umanità. Lo ha fatto attraverso uno stile asciutto, incredibilmente coinvolgente. Da Universal Home Video, l'edizione DVD, ma il consiglio è quello di privilegiare sicuramente il Blu-ray per ritrovare tutta la qualità visionata nella sala cinema. Audio DTS multicanale di notevole qualità per l'italiano e DTS multicanale ma ad alta risoluzione per l'inglese, sicuramente da riferimento. Sono pochi gli extra, tra cui segnalo tre brevi approfondimenti sulla produzione, tra preparazione attori e scenografie. C'è anche un quarto focus sull'attrice Jessica Chastain, è inclusa la copia digitale. E allora, questo era Zero Dark Thirty di Kathryn Bigelow. Adesso un altro film, atmosfera di commedia, in questo caso per un remake di un film del 1966, firma del copione dei fratelli Coen, stiamo parlando di Gambit. Il nonno, tutti questi documenti nei registri dell'esercito, Bulldog Pusnowski. Sì, ho letto il promemoria, ma perché dovrei farla venire? Se il dipinto è autentico e se lei vuole venderlo, io di sicuro non voglio apparire troppo interessato. No. Le telefoni e le dica che se dovesse passare da Londra sarò lieto di ritagliarmi qualche minuto per una chiacchierata. Lasci che spinga lei perché l'affare si faccia. Certo, signore, è geniale. Ma che dice, Dean? È elementare. Imbecille. Coglione. Esperto d'arte, Harry decisamente non riesce più a sopportare il magnate collezionista compulsivo di opere d'arte Lionel Shabandar. Deciso a fargliela pagare per le angherie subite, Harry studia un piano per rifilare al miliardario un falso Monet e per questo commette l'errore di coinvolgere una regina di rodei texani. Anche se scritto dai fratelli Coen, la commedia che si rifà all'originale opera con Michael Caine e Shirley MacLaine non trova proprio la giusta vena ironica, perdendosi un po' tra rivoli disgraziati momenti comici. Da Warner Home Video l'edizione DVD, ma c'è anche il Blu-ray, quest'ultimo sicuramente di qualità video superiore, audio Dolby Digital multicanale identico all'originale, ma c'è sempre la traccia DTS ad alta risoluzione multicanale in inglese di resa eccellente. E come extra segnalo interviste a cast e regista. E allora, questo è Gambit di Michael Hoffman, Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman, protagonisti. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao. presto. E siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Non ci resta che augurarvi innanzitutto buon Ferragosto a tutti, che sia grigliata, che sia mare, che sia montagna o campagna, divertitevi e fate i bravi. Poi ringraziare per la tenta regia il nostro Carmelo Lauricella, per la parte redazionale Giorgio De Luca. Darvi appuntamento alla prossima settimana, non prima di avervi ricordato la nostra pagina Facebook, aperta anche a Ferragosto, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace e restate in contatto con noi. Sabato prossimo e domenica prossima ci saremo. Un saluto da Franco D'Assisi.